ermetica, chiusa. Da anni si era ritirato nel New Hampshire, non parlava con nessuno, non riceveva i giornalisti, anzi li riceveva spesso a schioppettate e con minacce di fucile in braccio, non voleva parlare con nessuno, solo due interventi per cercare di bloccare alcune con alcune cause chi voleva pubblicare alcune cose su di lui, l'autore del Giovane Holden soprattutto. Oggi Giovanna Mancini ne fa un bellissimo ritratto a pagina 16 del Sole 24 Ore. E proprio col Sole 24 Ore voglio chiudere con una segnalazione, perché da oggi trovate in edicola il mensile 24, che è alla decima edizione, e celebra il decimo anniversario, e che ha deciso con il suo direttore Fernanda Roggero di riflettere, insomma, sulle 10 grandi sfide che impongono e che vengono imposte in questo nuovo millennio. La prima sfida è quella del corpo, usi e abusi del corpo. Questo è il numero monografico che trovate in edicola a partire da oggi. Vale a dire, insomma, il corpo in tutte le sue accezioni, come rappresentazione, come immagine, il corpo in tutte le sue forme. Questo è il protagonista di 24, che trovate in edicola col Sole 24 Ore. Ebbene, ci fermiamo qua, votate il sondaggio. Allora, parliamo di immigrazione, della frase di Berlusconi: meno extracomunitari, meno reati, meno criminalità, che voleva dire forse meno clandestini, voleva dire meno immigrati. Il PD, l'opposizione, si è molto adombrata. Che ne pensate? Siete d'accordo con questa frase di Berlusconi? 24 mattino. Sono le 8 e 16 minuti, eccoci qua, ben ritrovati a 24 mattino, è il momento dell'economia. Soldi e dintorni. Oggi c'è la nostra Valentina Furlanetto. Buongiorno, buongiorno Alessandro e agli ascoltatori. Mi scuso innanzitutto, già indegna sostituta di Deborah Rosciani, no, anche la voce. La voce oggi. Dove l'hai lasciata? Non lo so. E la Rosciani? Neanche. La Rosciani oggi meritato riposo. Parliamo, Alessandro, oggi andiamo al sodo, di bonifici bancari, bonifici che, come tu sai, ci mettono qualche giorno, insomma, ad essere accreditati. Invece qualcosa cambierà, perché sono in arrivo delle grandi novità. Lo scorso 22 gennaio è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legge che introduce la direttiva europea dei servizi di pagamento, l'acronimo è PSD e sta per Payment Services Directive. L'effetto di questa decisione, l'effetto pratico, è che il sistema dei pagamenti con le banche diventerà più efficiente nei tempi e più trasparente nelle procedure, vedremo come. Le nuove modalità dovranno entrare in vigore lunedì successivo al 15° giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto varato venerdì scorso, quindi attenzione, non sono già effettive. In realtà però siamo in ritardo, come spesso accade, in ritardo di più di 2 mesi, perché la direttiva doveva essere recepita entro il 1° novembre 2009. Comunque ormai ci siamo, e per parlarne abbiamo con noi Anna Vizzari. Buongiorno. Buongiorno a voi. È dell'ufficio studi economico giuridici di Altro Consumo, che ci aiuterà un po' a capire di cosa si tratta. Innanzitutto le novità pratiche più importanti che verranno introdotte da questo decreto, ce le può spiegare? Sì, allora innanzitutto, come è già stato detto, la direttiva non è ancora entrata il recepimento della direttiva non è ancora entrata in vigore, per cui stiamo parlando di norme che non sono ancora effettivamente operative. Per quanto riguarda i bonifici, sicuramente la novità più importante è il fatto che per la prima volta vengono fissati dei termini molto precisi sia per la valuta che per la disponibilità del bonifico per il beneficiario. Tempi che partono non dall'accredito sul conto corrente per il beneficiario, ma per la prima volta alla data di accettazione del bonifico da parte della banca dell'ordinante. Cioè, nel senso, se il signor Rossi va in banca un determinato giorno, mettiamo il 2 febbraio, e fa un bonifico a favore del signor Verdi, e da quel momento o al massimo dalla giornata operativa successiva al momento in cui si è recato in banca, che partono i famosi termini fissati alla direttiva, che diventeranno a regime una giornata operativa successiva alla data di accettazione, ma che fino al 1° gennaio 2012 assai presumibilmente rimarranno 4 giornate operative. Ecco, appunto, perché ci sono molte novità, ma ci sono anche delle deroghe. Esatto, nel senso che la deroga principale è il fatto che le banche possono fino al 1° gennaio 2012 accordarsi, e anche su questo vabbè, bisogna anche dare una spiegazione su cosa sia l'accordo, con il cliente affinché questi termini, che dovrebbero essere appunto di una giornata operativa dopo l'accettazione, siano più lunghi, possano essere più lunghi, nei limiti appunto alle 4 giornate comunque previste dal decreto di recepimento. Il cliente deve essere d'accordo, questo è importante. Il cliente deve essere d'accordo. È d'accordo, però diciamo che anche da questo punto di vista la situazione non è proprio, possiamo dire, paritetica, nel senso che comunque spetta alla banca dare la comunicazione al cliente entro il 30 aprile 2010 e il cliente ha 60 giorni di tempo eventualmente per recedere dal rapporto. Diciamo che si tratta di una situazione in cui è assai difficile che il cliente receda il rapporto semplicemente perché non è d'accordo con la banca sui termini di esecuzione del bonifico. Per cui cioè, diciamo che è un accordo tra virgolette, però diciamo che comunque sono dei termini fissati e ben precisi che non possono al limite superare le 4 giornate operative. Ecco. Comunque a regime dal 1° gennaio 2012 in realtà come sono le banche? Sono attrezzate per fare fronte a questa direttiva? A questa novità? Sì. Allora diciamo che già nell'ultimo periodo dell'anno, nel 2009, le banche hanno investito moltissimo sulle nuove piattaforme tecnologiche che dovevano garantire gli standard previsti dal famoso bonifico SEPA. No? Il SEPA, ricordiamo, è l'area unica dei pagamenti che permette appunto dei bonifici transfrontalieri nei 27 paesi dell'area europea più 4 paesi sempre molto vicini, tra cui anche la Svizzera, e su appunto piattaforme rapide, veloci, tecnologiche, quindi con dei termini di esecuzione che non dovevano superare le 3 giornate operative. Devo dire che ad oggi a regime la situazione non è ancora definitiva, nel senso che ci sono molte banche, soprattutto le più piccole, che hanno difficoltà a mantenere questi standard. Ci sono ancora, diciamo, c'è ancora un po' di tempo per adeguarsi, noi speriamo che comunque entro il 2012 la situazione insomma migliori, ecco. Nel decreto legge, nella stessa direttiva PSD, si parla di introduzione anche di regole che favoriscono una maggiore trasparenza per i consumatori. In termini pratici, questo cosa significa? Allora, sicuramente una delle novità principali è il, parlando in generale di servizi di pagamento, mi vengono in mente ad esempio le carte di credito, è fissato molto, in maniera molto precisa, il fatto che il cliente deve avere sempre la possibilità di recedere senza preavviso, mentre adesso tutti sappiamo che nei contratti e alle carte di credito spesso se non si comunica il recesso entro un determinato periodo alla scadenza, quindi 2-3 mesi, si è costretti poi a pagare il canone annuale relativo alla carta comunque. Ecco, questi termini non dovranno più esserci ed è anche previsto che in caso di recesso nel corso dell'anno, se si è pagato una quota annua complessiva, quindi appunto il canone della carta di credito ad esempio, si ha diritto alla restituzione della parte di canone successiva e relativa al periodo successivo al recesso. Fra le altre novità, leggo, c'è anche una tutela maggiore dei clienti nei casi di operazioni di pagamento non autorizzate oppure eseguite in modo inesatto, il classico caso in cui si sbagliano le cifre dell'IBAN. Sì, ecco, questa è una cosa molto importante, nel senso che gli standard che abbiamo prima indicato anche per i bonifici, quindi le famose 4 giornate operative che diventeranno 1 dal 2012, saranno garantite alla banca soltanto se il bonifico riporta esattamente l'IBAN, quindi il codice identificativo unico che deve essere esatto e preciso, altrimenti la banca non ha nessuna responsabilità per la mancata esecuzione o l'esecuzione comunque in ritardo del bonifico. Quindi è assai importante questa precisazione, cioè nel senso che è importante che il bonifico riporti esattamente le coordinate bancarie, l'IBAN. Sicuramente la direttiva fissa, il recepimento anche della direttiva fissa dei termini molto precisi anche per poter contestare addebiti sia di operazioni non autorizzate sia di operazioni autorizzate. Nel caso delle operazioni autorizzate è previsto che l'eventuale contestazione debba avvenire entro 8 settimane dall'addebito dell'operazione sul conto corrente e l'operatore ha 10 giornate operative o per ovviamente accettare la contestazione oppure eventualmente per giustificare la mancata accettazione del reclamo. è previsto poi che per le operazioni autorizzate questo termine arrivi a 13 mesi dall'operazione, dall'addebito ovviamente all'operazione. Sento che lei comunque fa sempre riferimento al prossimo 1 gennaio 2012, quindi ci sono poche speranze in realtà che entri in vigore subito, le banche non sono pronte. Sul lato bonifici, a nostro avviso, è assai difficile che da subito si raggiungano gli standard di una giornata operativa successiva all'accettazione del bonifico. Quindi noi teniamo come limite quello fissato dal recepimento, che appunto sono le 4 giornate operative. Dal 1 gennaio 2012, fatto salve eventuali proroghe, che in Italia sono sempre possibili, effettivamente il decreto di recepimento fissa appunto questo termine. Noi ci auguriamo che venga rispettato. Comunque, come clienti cosa ci dobbiamo aspettare? Una lettera nella quale la banca ci spiega che cosa avverrà? Sicuramente entro il 30 aprile 2012 le banche invieranno una comunicazione al cliente, una comunicazione simile a quella che si riceve per le modifiche del conto corrente, e appunto specificheranno i termini relativi ai bonifici e anche eventuali variazioni legate comunque sempre al recepimento della PSD, tipo anche quelle a cui ho fatto riferimento prima per le carte di credito. E il cliente ha 60 giorni di tempo per recedere dal rapporto se non è d'accordo con le comunicazioni. Un altro aspetto che forse è da sottolineare anche relativamente ai bonifici è che è fissato per la prima volta che la valuta per il beneficiario debba essere uguale a quella in cui la somma viene accreditata sul conto corrente, così come la disponibilità. Quindi non ci dovrebbero essere più gli scoperti di valuta che spesso appunto caratterizzavano i rapporti sul conto corrente, dovuti al fatto che la somma veniva a avere valuta successiva a quella di accredito. Io la ringrazio, Anna Vizzeri dell'Ufficio Studi Economico-Giuridici di Altro Consumo. Torneremo a parlarne in altre puntate anche di Salvadanaio, mentre oggi, Alessandro, parliamo in Salvadanaio di arte, di investimenti in arte. Alle 8.32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, le notizie in primo piano, via libera del Consiglio dei Ministri a un piano straordinario per il contrasto alle mafie, intanto il presidente di Confindustria Marcegaglia dice le imprese che pagheranno il pizzo verranno espulse e da Reggio Calabria una frase di Berlusconi sull'immigrazione scatena la polemica politica, ne parliamo di questo tra pochissimo. Secondo il settimanale Panorama, la procura di Bari starebbe indagando Patrizia Daddario, la escort che passò 2 notti con Berlusconi. La Daddario avrebbe trascorso le notti col premier per poi incastrarlo in base a un complotto, ma la procura di Bari al momento ha smentito. Nuovo processo per Alberto Stasi, a un mese dall'assoluzione dall'accusa di aver ucciso la fidanzata Chiara Poggi. A intentare causa contro Stasi sono i suoi primi avvocati, chiedono 81.000 euro di parcella mai pagata. Infine, per il calcio, l'Inter batte 2-1 la Juventus in Coppa Italia, accede alle semifinali, dovrebbe essere stata l'ultima partita sulla panchina bianconera per Ferrara. Oggi la società decide, mentre in casa fiorentina shock per la positività al doping di Adrian Mutu e non è la prima volta in carriera. Allora, alle 8.33 minuti parliamo appunto di immigrazione, di quello che ha detto il premier Berlusconi nel nostro sondaggio di oggi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. Siccome c'è anche un'interpretazione, un giallo rispetto a quello che ha detto Berlusconi, la cosa migliore è sentire esattamente quello che ha detto. Ieri il Consiglio dei Ministri Reggio Calabria, Berlusconi ha parlato di immigrazione e sentiamo che cosa ha detto il Premier. I risultati sul nostro contrasto all'immigrazione clandestina sono molto positivi, quindi inizieremmo da questo, anche perché poi la diminuzione degli extracomunitari significa anche meno forze che vanno ad ingrossare le schiere delle organizzazioni criminali. Insomma, meno extracomunitari, meno criminalità. Siete d'accordo? Qualcuno dice, ma stava parlando di clandestini, quindi bisognerebbe leggerla come meno clandestini, meno criminalità. La differenza è abbastanza sostanziale. Intanto saluto Livia Turco, buongiorno, onorevole del Partito Democratico. Lei si è molto adombrata, il Partito Democratico. Secondo lei è sostanziale la differenza a dire meno clandestini o se stava parlando di immigrazione clandestina o meno immigrati in generale? Ma intanto ha detto meno immigrati uguale meno criminalità e questa è la frase che hanno sentito tutti e nel discorso pubblico le frasi che vengono dette contano, incidono, formano opinioni, tanto più quando sono dette autorevolmente. Quella frase è molto grave, intanto perché è totalmente infondata, perché noi dovremmo dire invece che più immigrati uguale più ricchezza e più benessere del paese, perché questa è la realtà vera. E poi una frase assolutamente inaccettabile, perché fomenta la paura, fomenta il pregiudizio, e l'Italia, noi italiani, in questo momento così difficile, abbiamo bisogno di tutto tranne che dell'essere fomentati nella paura e nel pregiudizio. Non crede davvero che si riferisse alla questione, cioè l'associazione immigrazione clandestina, ne stava parlando 5 secondi prima, ma non è una difesa di Berlusconi, non lo devo difendere, certo io. Quella che la frase che abbiamo sentito è quella. Dopodiché, anche se si fosse parlato di immigrazione clandestina, intanto non è vero che questo governo ha ottenuto tutti questi risultati nel contrasto dell'immigrazione clandestina, ma questo è un altro discorso. Però io ci sto a discutere immigrazione clandestina. Anche che cos'è l'immigrato clandestino? È un criminale? Perché questa è l'equazione che viene passata. Non è così. L'immigrato clandestino, giuridicamente, formalmente, nei fatti, sono persone inermi che arrivano in Italia tante volte con il permesso di soggiorno, ma che grazie a queste leggi incredibili che abbiamo in Italia, che si chiamano Bossi-Fini, se poi vuole entriamo dettagliatamente nel merito, diventano irregolari. Il Premier avrebbe dovuto parlare di quei 700.000 irregolari che sono presenti in Italia, che lavorano nelle nostre famiglie, che sono irregolari per via delle leggi che non funzionano. E poi è sbagliata l'equazione clandestino uguale criminale o clandestino uguale tutti i mali del mondo, perché se uno delinque è un delinquente, lo si chiama così, uno che delinque, sia italiano sia straniero. Se uno che non ha i documenti, si dice che uno che non ha i documenti, che deve essere espulso. Su questo la seguo di più, nel senso che anche oggi, poi lo vedremo, Marzio Barbagli, sociologo, dice clandestini sono anche tutti quelli, per esempio, che ne so, la badante a cui scade il permesso di soggiorno, si trova in Italia, è clandestina formalmente quella lì, quindi se vogliamo fare l'associazione non vogliamo pensare che in quanto è scaduto il permesso di soggiorno sia ugualmente un rischio di criminalità. Voglio salutare il senatore Sandro Mazzatorta della Lega Nord. Buongiorno senatore, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, sindaco anche di Chiari, mi correggo sì, se sbaglio. Chiari in provincia di Brescia. Qualcuno ha detto una frase in vero stampo leghista da parte di Berlusconi, forse insomma anche siamo in campagna elettorale. Lei come la interpreta? Ma io rimango un po' allibito, perché le parole che ha detto Berlusconi ribadiscono un dato che è noto a tutti quelli che esaminano le statistiche criminali con oggettività e senza, come dire, i paraocchi ideologici: che ci sia un tasso di criminalità nella popolazione straniera presente nel nostro territorio superiore a quello degli italiani è un dato notorio che è stato studiato da tutti i sociologi. Prima lei ha citato Barbagli ha fatto nel 2008 un bellissimo libro che si intitola Immigrazione e sicurezza in Italia, dove riporta tutti i dati delle statistiche giudiziarie e conclude dicendo che il tasso di criminalità degli stranieri, sia regolari che irregolari, è superiore a quello degli italiani, per una serie di ragioni di carattere criminologico, sociale, che sono note a tutti. Quindi francamente alimenta razzismo chi vuole negare questo dato. Però senatore, oggi guardi Barbagli, siccome fa un'intervista proprio al Corriere della Sera, riepiloga questi dati, neanche di critica che poi le sottoporrò al pacchetto sicurezza voluto dalla Lega, dice certo è vero in qualche modo che l'associazione del vero c'è nelle parole di Berlusconi, a parte che lui precisa voglio sperare che si riferisse ai clandestini quando ha detto extracomunitari, ma questo l'abbiamo già chiarito. Barbagli in realtà smentisce se stesso, perché io qua davanti il libro di Barbagli, e Barbagli dice che per alcuni tipi di reati di reato, esattamente, cioè il problema è questo, cioè dice il 68% dei borseggiatori sono per esempio gli immigrati clandestini, il 92-94% di spaccio e traffico di droga è compiuto da immigrati senza permesso, cioè questa tipologia di reati sono appannaggio statisticamente molto a loro. Altri reati come la corruzione, no, insomma non è che la corruzione... No, però dice Barbagli che le violenze sessuali e gli omicidi anche irregolari sono una quota non irrilevante, cito alla lettera Barbagli, il suo libro. Quindi Perché negare questo dato? Io non capisco questo perbenismo ideologico, questi paragocchi ideologici. Partiamo da un dato di fatto, poi cerchiamo di trovare delle soluzioni. Ma dire, come ho sentito dire l'onorevole Turco, che l'immigrazione è una risorsa, più ricchezza, più benessere, è anche un problema l'immigrazione, non neghiamolo, è un problema. Allora valutiamo quali sono gli aspetti che possono essere positivi e gli aspetti negativi, non negandoli, non mettendoci questo paraocchi. Vediamo, onorevole Turco, è perbenismo dire l'immigrazione è una risorsa, è una ricchezza? Ma no, ma guardi, questo è anche qui un dato di fatto, quando leggiamo le statistiche guardiamole tutte insieme, ma poi basta andare nei paesi in cui vive il nostro senatore, basta andare nel Veneto, nel mio Piemonte, in Emilia, in Toscana, in Lombardia. Adesso io mi auguro che arrivi il momento in cui ci possa essere un dibattito un po' più di merito, un po' più pacato sull'immigrazione. Ci sono 4 milioni di immigrati irregolari che vivono in Italia e di cui francamente non si può fare a meno. E anche in questa fase di crisi economica ci sono stati i dati Istat e ci fu a fine dicembre un commento su questi dati Istat di Luca Ricolfi, un editorialista della Stampa, che certo non si può, come dire, essere sospetto di simpatie verso la sinistra buonista, il quale faceva una riflessione sui 400.000 posti di lavoro immigrati che nella crisi sono cresciuti, perché sono tutti localizzati in segmenti del mercato del lavoro, segmenti del mercato del lavoro che corrispondono a tipologie di lavoro che anche durante la crisi gli italiani non fanno più. E allora perché negare questo dato che tiene, come dirlo diversamente, alla ricchezza del nostro paese, perché chi lavora produce ricchezza. E come le cifre sempre qui di tutti i rapporti a partire dalla Banca d'Italia che ti dicono che i lavoratori immigrati, perché più giovani, contribuiscono alle risorse dell'INPS e quindi a pagare la pensione degli italiani, perché sono più giovani e perché chissà se poi loro andranno in pensione. Perché c'è una composizione del c'è una composizione demografica del nostro paese che vede le proiezioni di qui ai prossimi 30 anni una diminuzione della forza italiana giovane, e se non vogliamo che il nostro paese declini avremo bisogno che questa forza lavoro sia, uso un termine tecnico usato in tutti i rapporti, sia rimpiazzata. Ecco, gli immigrati hanno un effetto rimpiazzo rispetto a alcuni segmenti del nostro mercato del lavoro, che noi non vogliamo fare più, all'economia del nostro paese. Ma si può discutere con questo tranquillamente. Poi certo che l'immigrazione ci sono dei problemi, perché c'è un problema di governo dell'immigrazione, bisogna fare in modo che non sia concentrata in alcune parti e in alcuni quartieri. No, ma questo bisogna... sicuramente le sa che... Io sono disponibile a affrontare, ho affrontato questi temi, le contraddizioni, i conflitti. Dice non così, non le è piaciuta la frase, insomma, lo slogan. Ma no, quella semplificazione detta in un modo così autorevole e così chiaro, perché non c'era... È una frase che continua ad alimentare un senso comune, delle semplificazioni che fanno male, guardi, fanno male a noi, perché noi abbiamo il problema di imparare invece a convivere con questo cambiamento profondo. No, ma sicuramente allora adesso e poi mi lasci dire una cosa. Io lo so bene che soprattutto rispetto ad alcuni delitti c'è una maggior presenza di immigrati, ma soprattutto sono gli immigrati clandestini. Poi però molti di questi reati sono reati connessi alla Bossi-Fini, alle regole che sono state fatte, penso al reato di immigrazione clandestina. Allora discutiamo sull'efficacia. Ma guardi, sulla clandestinità adesso chiederò a Mazzatorta, perché appunto Barbagli su questo, almeno su questo punto, dati alla mano, dice bisogna essere critici. Detto che il 69% di chi sta votando dice siamo d'accordo con la frase nella versione che abbiamo messo, meno clandestini, meno criminalità. Vediamo Egisto da Verona, il primo ascoltatore che ci ha chiamato. Egisto, che dice? Buongiorno. Dica. Volevo semplicemente confermare quanto ha detto lei. La frase nel contesto in cui è stata espressa è chiarissima. Chiarissima proprio no, nel senso che parlava di immigrazione clandestina, però ha detto meno extracomunitari, forse. Io l'avevo sentita e non ho fatto il minimo dubbio. Capisco la dottoressa l'onorevole Turco in quanto esprime, ma sono d'accordo parzialmente, perché è un dato di fatto che laddove ci sono più clandestini, ci sono più reati. I clandestini nella massima parte in Italia sono extracomunitari. Anche quindi, su questo però è giusto, il clandestino, come si è detto, è anche colui che è in Italia, lavora regolarmente, poi gli scade il permesso di soggiorno. Per la legge è clandestino, quello per forza è criminale. Non lo so, è una domanda che io faccio. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. Meno clandestini, meno criminalità, il 74% di voi, le cifre si aggiornano costantemente, dice è così, come ha detto Berlusconi, che ha detto meno extracomunitari, meno criminalità. Vediamo, prima di tornare un attimo dal senatore Mazzatorta, un altro ascoltatore, Pietro da Torino. Pietro, che dice? Sì, buongiorno. Innanzitutto sono d'accordo con la signora Turco quando dice che l'immigrazione è più una risorsa che altro, specialmente in un paese il cui saldo netto della popolazione sarebbe negativo se non fosse per la forza di immigrati che entra specialmente in questo paese. Non sono invece d'accordo con il Premier, a prescindere dall'uso infelice e incorretto che ha fatto delle parole. Extracomunitario è anche un dirigente australiano o malese che si legge in Italia, quindi Possiamo dedurre che Berlusconi non si riferisse a un manager che viene dall'Australia. Possiamo dedurre, infatti non giocheremo su questo, perché comunque precisiamo che siamo in un clima in cui la situazione in cui parlava il Premier era un appuntamento ufficiale, e comunque il Premier della Repubblica c'era di fianco il Guardia Sicilia. Insomma, le parole contano, non siamo al bar, non siamo allo stadio. Va bene, grazie Pietro per la sua opinione. Senatore Mazzatorta, sempre Marzio Barbagli, poi se vuole la replicare a Livia Turco, dice: il reato di clandestinità da quando è stato introdotto, per esempio, la percentuale di immigrati denunciati per droga non è diminuita, anzi nel 2009, anno in cui è stato introdotto il reato di clandestinità, è la più alta mai registrata rispetto a prima, 34,2% era il 32% l'anno precedente. Il che dice Barbagli, sebbene ci siano delle ragioni appunto di quello che ha detto il Premier, però questo dato certificherebbe che non è il reato di clandestinità, non è stato efficace, anzi. No, Barbagli confonde due cose: il reato di clandestinità che abbiamo finalmente introdotto mettendoci alla pari di altri paesi europei che hanno già questo reato, dalla Francia, dalla Germania, all'Inghilterra, in realtà è un reato che serve strumentalmente per accelerare le procedure di espulsione, è un reato che serve a sanzionare una condotta di chi non rispetta le nostre norme sull'ingresso e sul soggiorno, contenute nella legge prima Turco-Napolitano, poi novellata Bossi-Fini, e quindi occorre sanzionare questo comportamento di chi entra in casa nostra senza rispettare le nostre regole. È una regola, è un reato, ripeto, che è stato inserito in tutte le legislazioni dei paesi europei, gli ultimi due paesi a non averlo erano l'Italia e la Spagna, l'Italia l'ha introdotto. Detto questo, ovviamente i reati commessi dai clandestini sono altra cosa, il tasso di criminalità dei clandestini è di 28 volte superiore a quello degli italiani, negare questi dati, ripeto, significa negare un dato notorio. Poi mi consenta di dire una cosa, l'unico paese europeo serio che ha fatto un'analisi costi-benefici sull'immigrazione, cioè che anziché dire le frasi fatte della risorsa eccetera, ha misurato i costi sociali ed economici dell'immigrazione e i benefici sociali economici dell'immigrazione, ed è l'Inghilterra, ha fatto un'analisi dettagliata, la Camera Alta dell'Inghilterra, l'House of Lords, ha concluso dicendo che i costi sono superiori ai benefici e per questo l'Inghilterra sta modificando radicalmente il suo sistema di selezione dell'immigrazione, andando verso un'immigrazione valutata in base a un punteggio, cioè ad ogni immigrato sarà associato un punteggio e verrà selezionata solo l'immigrazione, diciamo, non problematica, quella professionale, quella che non crea problemi sociali. Vediamo se questo, senatore, è un po' lo spirito che ha animato anche a Brescia un'iniziativa, saluto un suo collega amministratore e nonché di partito, Fabio Rolfi, buongiorno, vice sindaco di Brescia, buongiorno Rolfi. Buongiorno a voi. Della Lega. Allora, Brescia, abbiamo letto sui giornali, diamo soldi agli stranieri, 500 euro e il biglietto aereo agli immigrati che tornano al loro paese. Ce la vuoi spiegare, cioè a quale tipologia di immigrati, a chi perde il lavoro, a chi è in difficoltà, a chi vuole abbandonare l'Italia? Ma diciamo innanzitutto che i progetti per il rimpatrio volontario assistito ce ne sono tanti, già in corso. Il Comune di Brescia ha aderito anche a un progetto comunitario che è il progetto NIRVA, che è rivolto ad alcune categorie protette di immigrati come le vittime della tratta, le ex prostitute e così via. accanto a questi progetti in estera abbiamo istituito anche un fondo comunale alimentato con 60.000 euro per il 2010, con il quale andiamo a offrire questa opportunità di rimpatrio volontario assistito, come lei ha ricordato, anche a immigrati regolari che hanno perso il posto di lavoro, quindi disoccupati, che rischiano quindi di scivolare lungo il piano inclinato della clandestinità, perché così prevede la legge, e quindi probabilmente di alimentare anche diciamo la criminalità urbana, la marginalità sociale, e che dovranno, in cambio di questa diciamo opportunità loro concessa, riconsegnare il permesso di soggiorno. Si tratta quindi di una proposta che va a integrare le politiche che già ci sono sul rimpatrio volontario assistito anche a una categoria, credo, significativa e numerosa in questo periodo di crisi economico, che è però esclusa da queste politiche e che grazie vediamo, non so, può aderire. Onorevole Turco, che ne pensa di questo rimpatrio volontario richiesto? Si danno dei soldi, li si aiuta a reinserirsi nel proprio paese? Lei che è stata ministro anche su questo. È una norma della legge turco-napolitano. Infatti no, per questo glielo ho chiesto. Perché è rimasta in vigore in grande parte quella legge, quindi a dimostrazione che appunto era una legge che si basava su tre pilastri: contrasto dell'immigrazione clandestina, immigrazione regolare, politiche di integrazione, quindi il sindaco si riferisce a una norma che avevamo fatto noi. Però mi consenta di sottolineare un aspetto. Io sono contro l'immigrazione clandestina, siamo contro l'immigrazione clandestina. Non è vero che questo governo sta combattendo in modo efficace l'immigrazione clandestina, perché continuano a farci credere che l'immigrazione clandestina sia quella via mare. Quella è quella che si vede, ma è un 10% degli ingressi. L'immigrazione clandestina e l'immigrazione irregolare diffusa nel nostro paese, perché c'è? Perché si diventa irregolari? Perché sono ostruiti gli ingressi regolari per lavoro. E qui parlo con fatti. Questo governo in 2 anni non ha fatto il documento triennale sulle politiche migratorie, cioè non ci ha detto quanti ne devono entrare, che quali politiche di integrazione facciamo. È una norma della legge in vigore che non che avevamo introdotto noi, ma che la Bossi ha confermato, che non viene applicata. Nessun ingresso regolare per lavoro, tranne un decreto flussi sul lavoro stagionale. La durata dei permessi di soggiorno è brevissima. Quando scade il permesso di soggiorno, il tempo per cercare lavoro prima di essere espulsi è brevissimo. I tempi per ottenere il rinnovo dei permessi di soggiorno invece è lunghissimo. Quindi noi viviamo in un contesto in cui, altro che immigrazione a punti, la vorrei anch'io l'immigrazione a punti, ma l'immigrazione a punti presuppone un paese che funzioni, presuppone che si cambino le normative che consentano davvero di combattere la clandestinità. E si combatte la clandestinità se è consentito l'ingresso regolare, mentre invece le norme in vigore sono macchinose, farraginose. Penso anche a un articolo, l'articolo 23, questo sì, voluto dal ministro Maroni, che è un articolo che io condivido, quello che prevede ai datori di lavoro italiani, l'articolo 23, che prevede ai datori di lavoro italiani di formare all'estero forza lavoro per poi portarlo in Italia. È una bella idea, giusta, ma ho chiesto quanti sono quelli che sono arrivati, come funziona, mi è stato risposto dall'amministrazione e dai datori di lavoro, sarebbe una bella norma, ma intanto non è fatta funzionare e poi è introdotta all'interno delle quuote, sono state bloccate. Insomma, allora, questo dice, è tutto il tema che deve essere affrontato. L'inghippo, la macchina, insomma, inceppata. Io mi devo fermare qui perché il tempo a vostra disposizione è scaduto, ma continuate a votare sul sito, sono tantissimi, quando poi tocchiamo i temi di immigrazione, lo so, i voti sono tanti, sono più di 3.000, già l'81%, la percentuale se è molto aumentata nel frattempo, 81% è d'accordo con questa frase che noi appunto abbiamo messo giù così: meno clandestini, meno criminalità. L'abbiamo diciamo dedotta dall'interpretazione, la frase esatta era meno extracomunitari, meno criminalità, ma si parlava degli sbarchi clandestini. Ringrazio l'onorevole Turco, il senatore Mazzatorta e Fabio Rolfi, vice sindaco di Brescia. Ci fermiamo, Sara Spreafico in redazione con Peter Bescapè in regia. Li ritroviamo lunedì mattina.